America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24. Da Milano Mario Platero. Si complica la questione Comey, il capo dell'FBI licenziato in tronco da Donald Trump, dopo che Rod Rosenstein, numero 2 al Ministero per la Giustizia, unico responsabile dell'inchiesta sulle intrusioni russe nelle elezioni americane, parlava in un documento di problemi etici su Comey. Beh, il vero problema? Comey aveva chiesto allo stesso Rosenstein nuovi fondi proprio per potenziare l'inchiesta russa. E questa forse è la ragione del licenziamento di Comey? Trump sta forse minacciando la separazione di potere in America per proteggersi? La questione politica, democratici e repubblicani chiedono chiarezza. Il New York Times parla di attentato alla democrazia. Insomma, nella capitale monta una bufera. La soluzione? La nomina di un procuratore indipendente. Vedremo. Intanto oggi da Milano restiamo su un altro tema importante per noi. L'ho fatta a Milano perché in questo momento è sicuramente una delle città europee più vivaci e più vibranti. Ho voluto farvi ascoltare, sapete che sono a Milano per qualche giorno, quindi sto facendo le mie trasmissioni qui dall'Italia, dagli studi di Radio 24 a Milano, in via Monte Rosa. Ecco, perché ho recuperato questo pensiero di Molinari su Milano? Ma perché, devo dire che in questi giorni, ma anche in precedenti viaggi che ho fatto in città, mi ha colpito proprio la straordinaria energia di Milano. Una città non solo europea, una città ormai globale. Ero qui forse un mesetto fa quando c'era la settimana del design e di nuovo giovani per strada, grande movimento, e stavo riflettendo sull'importanza di questa città per il nostro paese, una città anche geograficamente collocata nel cuore dell'Europa, facile da raggiungere, e mi rendo conto da New York che c'è un forte interesse per la finanza americana a venire in Italia, a cercare di approfittare di certe situazioni magari anche fragili. E soprattutto, una delle discussioni chiavi, ricorrenti, che mi capita di avere anche a New York, riguarda Brexit. Insomma, con Brexit e con Londra che inevitabilmente dovrà rinunciare a certi business, la cosa che sento ricorrente è che le banche americane, le aziende americane o comunque internazionali che avevano fatto di Londra il loro quartiere generale, dovranno inevitabilmente spostarsi, quantomeno per non fare brutta figura con l'Unione Europea. Ma quali sono le due città di cui si sente parlare regolarmente? Sono Francoforte e Dublino. Francoforte e Dublino, Dublino e Francoforte. Qualche volta Parigi, raramente Milano. Ecco, io credo che noi dovremmo far partire una campagna, e voglio farla partire forse da questo entusiasmo che mi ha contagiato nell'aver partecipato a due eventi in città che sono il simbolo dell'attivismo, dell'energia di Milano. E cioè, ieri c'è stato un convegno sulla dolce vita, sull'esportazione di questo nostro modo di vivere nel mondo che viene apprezzato dappertutto, un convegno al quale hanno partecipato direi alcune delle punte di diamante della nostra produzione nel bello e ben fatto, perché ho potuto chiacchierare per esempio con Davide Oldani, un ambasciatore dell'Expo 2015, grande chef, grande innovatore. Pensate che la Harvard Business School gli ha dedicato un caso, ma insomma è incredibile, la Harvard Business School in genere studia i casi delle grandi aziende, delle grandi multinazionali, e invece ha deciso di dedicare un case study a Davide Oldani, cuoco qui a Milano. Ma c'erano anche grandi marchi, Jean-Christophe Babin, amministratore delegato di Bulgari, c'era Marco Bizzarri, amministratore delegato di Gucci, Mario Bellini, il grandissimo designer che si è inventato alcune delle cose che a partire dagli anni 70 fino ad oggi hanno lasciato il segno per arrivare fino a una delle sue ultime opere al Louvre. E poi naturalmente c'è stato, sentiamo. You and I love a steak. I've cooked you thousands of steaks, probably. Well, don't say, I don't know about thousands. Well, hundreds, but maybe. Hundreds of steaks. I'm trying to count. I don't think there are thousands, but what is true is I am not a vegetarian. Yes. Ecco, c'è stato l'intervento di Barack Obama, ne ho già parlato ieri abbiamo fatto una riflessione più politica, più morale con Maurizio Molinari, ma qui vi ho fatto sentire un altro aspetto di quello che ho chiamato ieri l'Obama Confidential. Obama che dice, ma no, io non sono vegetariano, adoro la carne, perché a un certo punto Sam Cass, il suo ex cuoco, dice, ma io ti ho cucinato migliaia di bistecche. Allora Obama ha fatto un balzo all'indietro, ma come migliaia? Adesso non esageriamo, e forse qualche decina. decina, no, ha insistito, diciamo centinaia, in 8 anni sicuramente un centinaio di bistecche te le ho fatte. E Obama ha ricordato la sua visita a Milano, ha ricordato l'ispirazione che ha avuto quando è andato a Santa Maria delle Grazie a vedere l'ultima cena, ha fatto lui stesso un riferimento a quei fenomeni culturali che sono poi quei fenomeni che ispirano la creatività nel bello e ben fatto, come ci hanno raccontato appunto nel convegno di ieri organizzato da Confindustria, un convegno che ha come tema di fondo quello di esportare la dolce vita. Ecco, Barack Obama involontariamente ieri è stato a sua volta un testimone di chi apprezza la dolce vita italiana e vuole apprezzarla. Ecco, qui torniamo un momento ai testimoni del simbolo della dolce vita. Sentiamo per esempio Jean-Christophe Babin che spiega come le radici culturali italiane poi diventano il volano su cui Bulgari costruisce i suoi gioielli. Sentiamo. Per la Bulgaria forse questo ambito storico, artistico, architetturale romano, perché siamo proprio nati nella città eterna, è stato molto importante nel influenzare i nostri artisti, i nostri artigiani. Tutti quanti hanno in mente il Bizirouan, che sarà il gioiello più iconico dei Bulgari. Bizirouan semplicemente è nato dal Colosseo, quindi è un anello colossale. Ecco, e poi abbiamo parlato di cucina e dunque sentiamo Oldani che ci spiega quanto sia importante per i stranieri venire in Italia, perché certi gusti non possono essere esportabili. Il prodotto italiano da tutelare è quello che cresce qua. Se mi permettete, il cardo gobbo di Nizza Monferrato, la cipolla di Tropea e le fragoline di Tortona, secondo me se le raccolgo e le mangio ho un'altra sensazione. Ci sono tanti mezzi per trasportare, per rinfrescare, tutto quello che volete c'è sottovuoto, c'è tutto, ma credo che non ci sia un'opportunità diversa da quella del mangiare sul posto e sul luogo. Ebbene, allora, grazie a questa visita di Barack Obama, grazie a questo convegno dell'altro giorno, grazie a quello che ho visto poco fa, grazie a quello che ci ha detto Maurizio Molinari, che Milano è una grande città europea, io insisto, dico Milano in questo momento è una città globale che dovrebbe attirare il business da Londra, non dobbiamo farci scalzare da Dublino o da Francoforte. E dunque, con questa trasmissione voglio lanciare una campagna che porterò all'estero perché si investa sull'Italia ma soprattutto su Milano. Insomma, l'opportunità l'abbiamo, l'appello lo lancio, chissà, magari una delle prossime trasmissioni ne discuteremo con il sindaco Sala. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa cosa atlantica che vive momenti di tensione ma apre come sempre una nuova frontiera inesplorata. Potete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, abbiamo parlato di quello che esportiamo ma abbiamo parlato anche dell'amore che gli stranieri hanno per l'Italia e dunque auspicando che questo amore si traduca in qualche passione che vada al di là del cibo, che vada al di là della moda, ma che possa portare anche un trasferimento di business, diciamo, su Milano, beh, non posso che proporvi di Dean Martin, That's Amore. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Da Milano è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!